pure. E guarda che adesso non parliamo di cosa che è inutile questo rapporto. Ainda la serva, quando lo stiamo andando lo vediamo anche noi, e la chi, la sua scuola, il padre, il figlio, il patrono della donna, non può guardare. Guarda, il figlio, la cattina, la sua scuola, la sua scuola, quando mi dà come spero lo scuola, non può sperare giusto, la figura della padre, ma quasi mi passivo. Guarda, la parola. Non per aiutare, non per aiutare, non per Thank you.